Allora, a quel punto io suggerirei di lavorare con cosa? Con degli elementi che siano come dire, contro quelle che sono le probabilità del dolore dell'articolazione, per esempio gli elastici o l'acqua. Cioè, sono due elementi che si rapportano direttamente a noi, quanto più noi lavoriamo. Più io spingo, più l'elastico reagisce con la sua tensione, più io spingo, più l'acqua reagisce con la sua resistenza. Senti, quindi questi elastici possiamo usarli anche a casa? Sì, è facilissimo perché Mi io. racconti per bene prima dei mercati, abbiamo pochi minuti, ma una manciata di secondi, si comprano gli elastici in Sì, qualunque. qualunque negozio di articoli sportivi o centro, diciamo, sportivo in genere. Comunque, se io sono seduto su una normale poltrona, su una sedia, io aggancio alla mia caviglia una parte dell'estremità dell'elastico, la faccio passare sotto la sedia e la tengo con la mano, Sì. l'altra estremità. A quel punto la estensione, quindi il portare il piede verso l'alto, sicuramente mi andrà a tonificare principalmente il quadricipite. Poi cosa faccio? Ne faccio magari tre serie da 10 ripetizioni. Quel lembo che avevo in mano lo aggancio invece alla maniglia della porta. Sì. Ok? Allora a quel punto io tirerò verso il basso la mia gamba, quindi farò lavorare Certo. principalmente gli antagonisti, quindi i flessori di gamba. Poi un'altra cosa, mi appoggio leggermente al tavolo, a una delle gambe del tavolo metto un lembo dell'elastico, mentre l'altro è sempre alla mia caviglia. A quel punto immagino di dare dei bei calcioni all'indietro, come fanno i cavalli, Sì. e lì tonificherò per esempio i glutei, nella estensione di coscia. Allora, gli elastici sono veramente degli amici, proprio perché ci permettono di lavorare con semplici esercizi, ma con assenza di problematiche articolari.